24 mattino, l'Italia si desta. Prossima pausa, ma torniamo subito dopo in diretta su Radio News 24 con gli aggiornamenti delle notizie. Restate con noi. Restateci voi perché io me ne vado, questi, mi sono rotta il cazzo. Sono imprevisti del mestiere. Mai tenere il microfono acceso. Io guardo il mio tecnico Peter Beschepè. Andiamo a sentire le informazioni. Insomma, spegni il microfono subito. Questa era Laura Tangherlini di Rai News 24, diventata già un mito nella rete perché, come dire, ha dato la pubblicità e ha commentato così. Ecco, ha commentato così. Vabbè, voglio salutare tutti, dai che è quasi Natale, sono le 6:33 minuti, io oggi ho contato le mie sveglie alle 5 fino a Natale. Sono Milan, cioè, hai rotto i coglioni con questa storia che delle ore di sonno, 5 ore, 3 ore, 4 ore, e tutte le settimane sempre sta rotto i coglioni, ma guarda, io sono 30 anni e mi alzo alle 4 e mezza, ma mica da rompere i coglioni la gente come voi, Dicevo, sono ancora 6 sveglie alle 5 e poi è Natale. Oh, e quindi schema Allegri come al solito inserito a manetta stavolta. Dai, dai, forza, dai. Voglio salutare oggi incredibilmente Elisabetta Fusconi, qui sveglia alle 5 anche lei, e il nostro alpino Peter Beschepè. Come detto, apriamo subito il nostro Parlamento. Dai, dai, tira sulla serranda. Il caffè volentieri a tutti quanti. Forza! Parlamento, forza, forza, gente. Allora, voglio salutare Massimo De Manzoni, l'ho presa da Libero, dal vostro sito, questa mitica Laura Tangherlini di Rai News 24. Buongiorno Massimo, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Succede a volte quando i microfoni. Certo, con i fuori onda ne sono successe di peggio. abbastanza. Voglio salutare anche il mitico Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno a tutti. Come va? Bene. Oggi siete anche il Codacons oggi va in marcia. No, visto che c'è una manifestazione, insomma, sì, su. Però non siete niente forconi, No, il circolo dei buoni, altro che forconi, cioè una cosa per le famiglie bisognose, per fare avere nei mercati l'agroalimentare gratis a chi ha bisogno per Natale, quindi è un'iniziativa con Coldiretti e con la Caritas. Tra l'altro, nello stadio di Domiziano, questa è una notizia importante, riapre dopo 2000 anni una delle più belle aree archeologiche del mondo, a Piazza Navona. E che la aprono per voi? No, la aprono perché un gruppo lo ha ristrutturato col Comune di Roma, la sovrintendenza, e quindi da oggi sarà fruibile questa area archeologica che è sempre stata chiusa, che è una cosa meravigliosa, proprio sotto Piazza Navona, che era uno stadio dove si facevano le gare. Fantastico. Domiziano organizzava di tutto per far divertire i suoi sudditi. Adesso ci mettiamo Renzi al posto suo. Ci mettiamo Rienzi, vabbè. Renzi non fa divertire niente. Vabbè, allora, cosa dobbiamo fare per raccontare questo paese? Io oggi ho letto l'apertura del Corriere della Sera di Repubblica, mi sembrava... Allora, caro Massimo, il caso della legge elettorale, così apre il Corriere, oppure Repubblica, legge elettorale, è già battaglia. Ma come è già battaglia? Ma vai a spiegarlo agli italiani. È già battaglia, sono 5.000 giorni che non si fa nulla, è già battaglia. Che vuol dire una roba del genere? Tu è una roba molto parlamentare, che ancora una volta dimostra tanto lo scollamento del palazzo da quello che sta succedendo nel paese. Comunque, se vuoi in 2 minuti, è la battaglia per portare la legge elettorale dal Senato, dove ci sono determinati numeri e dove quindi Alfano e i suoi sono decisivi, alla Camera, dove invece, grazie al premio di maggioranza, dichiarato illegittimo la Corte Costituzionale e che quindi non dovrebbe essere in vigore, ma se ne sono dimenticati tutti nel giro di 3 giorni, il PD gode di un'amplissima maggioranza e Renzi conta di cogliere la sua prima vittoria. Certo. Beh, già pare che ci sia stata questa vittoria, nel senso che spostarlo alla Camera è quello che voleva Renzi, perché lì il PD... Spostarlo alla Camera è una vittoria, o una sconfitta di Grasso, che è il Presidente del Senato. Ma come? Oggi fa un'intervista al Corriere e dice: l'ho spostata io, gliel'avevo detto ai partiti, o fate tutto oppure do tutto alla Camera. Fare un'intervista. Gianrullo Grasso oggi ha dato un'intervista al Corriere. Sì, com'è che l'hai chiamato Garrulo Grasso? Ride sempre Grasso. Perché ride sempre? Boh, vabbè. Uno ha vinto, che ha vinto la lotteria come ha vinto Grasso, ha ragione. Ha ragione di ridere. Vabbè, caro Rienzi, ci dobbiamo occupare di legge elettorale? No, queste sono cose. Ma che alla gente proprio gliene frega niente della legge elettorale? Questa... alla gente gli frega di sapere, per esempio, quanto pagherà l'IMU, se pagherà, non si capisce niente. Mancano solo 3 giorni, stia calmo, insomma, c'è tempo, no? Sì, però poi al 16 gennaio ci sarà un'altra scadenza. Chi è che sa, alzi la mano, chi è che sa cosa deve fare con l'IMU? Ah, io no. Ma non lo sanno manco i commercialisti, quindi... Non lo sa nessuno, è un caos totale, il che significa anche che la gente non va al mercato a comprare il panettone, come dico sempre, perché non sa se poi gli serviranno i soldi per pagare l'IMU, perché non sa che cosa deve fare con quei pochi soldi che sono rimasti. È più grave questa incertezza che non la tassa stessa. Non so se mi spiego, in una situazione di crisi in cui non si spende, i consumi non ripartono, mentre gli Stati Uniti hanno immesso liquidità perché non sono legati ovviamente a tutti i patti europei del diavolo che abbiamo, eccetera, si sono ripresi benissimo, noi invece non sappiamo nemmeno quanti soldi abbiamo in tasca il giorno di Natale. No, ma è chiaro. E l'unica cosa che ho capito è questa novità, di cui parlano tutti i giornali, che non si potrà più pagare l'affitto in contanti. Questa perché, Rienzi? Questa per evitare gli affitti in nero. È ovvio, no? Ma non solo gli affitti, ma anche l'entità dell'affitto, perché a volte gli affitti non sono in nero, però... una parte viene data in nero. Eppure guardi qua, Libero, perché vi arrabbiate così? Affitti mai più in contanti, colpa del PD. Ma non è una cosa buona, Massimo? Spererei ancora di vivere in un paese libero in cui si possa pagare come il diavolo si vuole, altrimenti me lo dicano che i soldi sono illegali. Dicono la tracciabilità, tutto elettronico. Qui lo Stato continua a tradire i patti con i suoi cittadini, vi dà una banconota in cui c'è scritto pagabile a vista con la firma del banchiere, della Banca d'Italia, dopodiché ti dice no, però questa è tutta una finta. Comunque questa cosa, come tutte queste cose, aumenterà l'evasione anche. Addirittura, ho capito, certo, ma allora qualsiasi cosa si fa in Italia... tentativo, no? Perché la cosa più semplice sarebbe rendere scaricabili tutti gli scontrini, questo abbiamo sempre detto, no? Se io vado, pago l'idraulico, il meccanico, vado al bar, eccetera, mi piglio lo scontrino perché so che a fine anno poi lo posso mettere a denuncia di redditi come spesa... Io la chiederò a tutti, quindi creare questo conflitto di interessi è la soluzione ideale, senza forzare quindi niente e nessuno. Se io so che vi posso scaricare l'affitto integralmente, chiederò la ricevuta dell'affitto integrale. Invece tutte queste cose complicate, no? La tracciabilità, appunto. L'evasione fiscale è un problema serio comunque da noi. Che dobbiamo fare? Allora, c'è uno che mi scrive un messaggio, fa: caro Milan, a me la protesta a Vicenza ha portato a fare un incidente, così oltre al disagio devo tirare fuori anche altri soldi. Federico, che è successo? Cioè, perché ha fatto un incidente? Non lo so. Comunque è il terzo, quarto, quinto giorno in cui ci sono queste proteste di piazza. Sentite bene cosa dice uno dei leader del movimento del 9 dicembre, tale Zunino, caro Massimo De Manzoni, oggi intervistato da Repubblica. Senti bene, che argomenti molto nuovi. Vogliamo la sovranità dell'Italia, oggi schiava dei banchieri, come i Rothschild. E poi aggiunge: è curioso che 5 o 6 tra i più ricchi del mondo siano ebrei, ma è una cosa che devo approfondire. Finalmente uno squarcio di novità, no? Un argomento mai sentito in millenni di storia, no? Ce lo porta questo Zunino. Per fortuna che deve approfondire, per cui almeno adesso studierà, perché i prossimi 3-4 anni non ci rompe più le scatole. Purtroppo è chiaro, in questa situazione qui, cioè, in queste piazze c'è di tutto, compreso... Ho capito, ma questo si accredita come uno dei leader, intervistato da tutti dei leader. Qui il problema è che siccome non c'è nessuno di leader, i leader poi se ne vanno a scegliere i giornalisti di volta in volta, no? O si accreditano loro, come dici tu. Io ho parlato con un po' di questa gente qui. Beh, tu stesso nella tua trasmissione televisiva ne hai invitati. Ai funamboli. C'è gente della più varia risma e del più vario sentire. Loro sono un sintomo, non sanno neanche loro spesso perché... che cosa vogliono, non hanno un'idea chiara. Uno dice lo stesso Zunino, tutti a casa, sì, non è un programma politico. Lo stesso Zunino, infatti, aggiunge poi: voglio le dimissioni del governo e delle due camere, ma non vogliamo una giunta militare. Ah, questo ci conforta, ma io veramente non capisco. È già qualcosa. No? Rienzi, insomma, ci conforta questa cosa. Però no? Dobbiamo dirlo che loro non sono loro il problema, ma certamente è stata creata, ma chiaramente vanno in piazza perché non ne possono più. Dopodiché, appunto, in una piazza così c'è di tutto, ma vanno in piazza perché non ne possono più e se la prendono con la casta. Perché ha fatto di tutto per essere il bersaglio preferito. Ma questo sì. Però certamente c'è disagio, c'è disperazione, non so se questi siano leader oppure no. Però Carlo Renzi, a lei inquieta un po' sentire questo che parla di ebrei, insomma, gli ebrei ricchi, nel 2013 queste cose ancora. Cioè. No, poi a parte che la ricchezza deve dare ricchezza, cioè. L'importante non è criticare chi ha più, ma intanto essere certi che quel di più sia stato guadagnato onestamente, ma poi fare in modo che venga messo in circolazione. Adesso io non sono certo per i ricchi, ma quando hanno bloccato, per esempio, aumentando enormemente le tasse sulle imbarcazioni, hanno creato un problema di crisi di un settore che in Italia era importantissimo, perché nessuno più si è comprato la barca, perché dice poi dopo mi beccano di qua di là. Ovviamente dietro c'è la mala coscienza di chi evade le tasse, però ecco, se si riuscisse a controllare chi deve pagare, non sarebbe necessario poi impedire di comprare la barca, e questo significherebbe che l'economia va avanti, cioè quindi la ricchezza va distribuita, va fatta circolare, va immessa nel mercato. Invece così, o chi se la mette sotto il materasso, e chi se la mette all'estero, non bisogna criminalizzare chi ha disponibilità, come c'è anche l'altra questione della Jaguar. Ancora questo leader Calvani dice: ma la Jaguar è costata 9.000 euro, ci dormo dentro, è pignorata, va bene. Allora, c'è chi mi scrive che ieri mi ha chiamato il commercialista, devo pagare 475 euro di IMU, scriverò, che tristezza, Paolo D'Alecco che aggiunge: nessun regalo ai miei bambini a Natale, metterò sotto l'albero la scatola vuota con scritto IMU. Mamma mia, che immagine, Paolo. Lei continua a dire che non riesce a capire la rabbia dei forconi, legga Il Sole 24 ore e vedrà i 5 punti. Milan, dopo i comunisti in Kashmir, i forconi in Jaguar. Basta! Basta! Basta! Tu, signor Letta, mi devi dire che cavolo hai fatto e che cavolo vuoi fare. Non sei Grillini, hanno messo sul blog le foto dei giornalisti o dei parlamentari alla gogna. Tu mi devi dire che cosa hai fatto, signor Letta, e che cosa vuoi fare. Ma perché voi giornalisti non siete riusciti a trasmettere il disagio della gente? Non ne possiamo più. Ma non vedete i negozi vuoti? Come si fa a non sapere la cifra delle tasse fino a 2 giorni prima di pagare? Vergogna! Ehi Milan, ma perché alla Bindi non gli hai detto debosciata? Buona giornata! Milan? Ho le spese condominiali troppo alte. L'amministratore è un ladro. Domani vado giù in stazione e blocco i treni. Caro Alessandro Milan, Olio di ricino ci vuole per questa gente. Olio di ricino e manganello per schiarirgli le idee. Maialoni che sono, Letta, Alfano, ma cosa risolveranno nel 2014? La crescita, la coda gli cresce, la coda gli cresce. Cosa cresce? Nulla faranno, nulla, nulla faranno. Vabbè, questo è il nostro ascoltatore Massimo De Manzoli, devo dire che... Vabbè, anche l'olio di ricino e il manganello, ma lasciamo stare, che appartiene all'epoca. È giornata oggi, non c'è la gente... ritorno dal passato. Sì, esatto, cioè, già abbiamo detto gli ebrei ricchi, per carità. Mamma mia, ragazzi, l'ignoranza, che brutta roba. Va bene, allora sentiamolo, è lui, parla in francese, è Silvio Berlusconi. Dov'è che è andata? France 2, dove è stato? Europe, France 1, France 2, non lo so. Comunque il concetto ha detto in francese, codesto, se mi arrestano. Dans moi, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas faire, parce que sinon il y aura une révolution en Italie. La rivoluzione in Italia. Rienzi, arriva la rivoluzione. Cioè, se mi arrestano, arriva, scatta la rivoluzione. Ma dai, ma a parte che se mi arrestano, ma perché? Rienzi. No, ma insomma, a parte appunto che non capisco. C'è gente che investe 10 persone con la macchina, ubriaco, e dopo 5 giorni sta fuori. Ma bisogna arrestare proprio Berlusconi per rischiare di offendere quei milioni di persone che l'hanno votato. Io spero che la magistratura non arrivi a tanto, ma non perché, come ho sempre detto, per esempio in Bielorussia uno come lui, invece di mandarlo in galera, gli hanno fatto costruire uno stadio, cioè la pena. Attenzione, attenzione, Rienzi farebbe costruire, in caso sì, di eventuale, uno stadio, Berlusconi... Perché la forzati. Gente deve vedere la pena, no? Che la vede? Se quello va ai servizi sociali, ma che vede? Allora tu vedi invece un bello stadio dove ci vai dentro, ti diverti, fai concerti, eccetera. Chi l'ha fatto? L'ha fatto Berlusconi perché era stato condannato, e allora lo Stato gli ha detto in cambio, e tu invece di andare in galera per un giorno, sei mesi a fare i servizi sociali, eccetera, costruisci uno Stato. No, ma attenzione, è una cosa, cioè Rienzi, ma è proprio una proposta seria. Che farebbe fare a Berlusconi? Ma adesso in Bielorussia hanno fatto un'arena bellissima, hanno fatto questo grande evasore fiscale in cui praticamente fanno concerti e quant'altro. Adesso io non lo so, una cosa per Expo 2015 oppure uno stadio, lo stadio a Roma, che qua non se ne può più questo stadio al centro, a Foro Italico, non bisognerebbe farlo un po' più lontano, un po' fuori. Sarebbero contenti tutti i romani, i laziali. Che deve fare? Portare la calce, calcestruzzo, cioè Berlusconi con la piarla. Ma no, soldi, cacciare, una pena pecuniaria forte. Ecco. Mica costruire lui con la cazzuola, costruire con i suoi fondi, con i suoi soldi personali, invece di pagare quella pena, pecuniarizzarla. Massimo De Manzoni, capito? Ma Berlusconi dovrebbe costruire qualcosa per Expo 2015 con i suoi soldi. Faccia qualcosa di concreto. Non può, perché i soldi li deve dare a De Benedetti. Vabbè, deve dare De Benedetti. C'è questo piccolo particolare, Rienzi, c'è cioè De Benedetti che deve avere un altro 30 milioni, pare. Quindi, vabbè, ma possiamo far cacciare qualcosa pure a De Benedetti. Vabbè, cosa ha fatto adesso? Appunto, non so, andiamo dai ricchi. Prima dice la ricchezza non è da colpire, adesso andiamo dai ricchi e gli chiediamo dai soldi. No, ma perché, scusi, allora, Taz della Valle si è preso il Colosseo per 20 anni per 25 milioni che praticamente gli hanno regalato, però c'è il suo nome, ha fatto una cosa buona. La Fendi ha fatto la Fontana di Trevi, e De Benedetti dice, visto che invece di avere tutti i soldi, Berlusconi rinuncia a una parte, lui costruisce il nuovo stadio olimpico di Roma. Ma vabbè, come Massimo, come la vedi? Non la vedo praticabile. Non la vedi praticabile. E vabbè, che dobbiamo fare? Qui ci sono altre notizie, ma poi le vedremo in rassegna stampa. Niente, io vi devo salutare. Buona manifestazione al Codacons. Che dire? Dove io lo vedo qua dalle 10 alle 15 oggi. Proprio. Lo stadio di Domiziano. Tra l'altro, Vittorio Sgarbi farà questa raga, spiegherà poi questo stadio. Cesga. Molto bravo, è un vero... Ah, sì, sì, uno pacato, pacato, pacato, no? C'è, c'è anche Sgarbi, caro Massimo De Manzoni. Vabbè, ma se lo fanno pagare, parlare d'arte è uno spettacolo. Vabbè, sì, sì, d'arte, è uno spettacolo, sì, sì, d'arte, è assolutamente. Io quello, ho capito quello, se non mi sbaglio. Non ho capito, Massimo, che c'è? No, no, ho capito che lo fanno parlare dello stadio di Diocleziano. Sì, però Sgarbi, se non sai mai, può partire da Diocleziano e poi partire per il raccordo anulare e dire sì. Almeno è interessante. Anche noi. Anche noi, esatto. Va bene, dai, vi saluto, vi ringrazio. Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Tra l'altro, il titolo di Libero oggi, no, questo cos'è? Come bloccare le cartelle del fisco. Ah, è bellissimo, ma non abbiamo il tempo di parlarne. È bellissima questa storia. Il TAR ha dichiarato illegittimi 700 fischi a dirigenti del fisco. Se la sentenza verrà confermata, tutte le cartelle, tutti i provvedimenti firmati da quei dirigenti sono da buttare nel cestino. Vabbè, ma dai, su, ma dai. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci qua, sono le 7:20 minuti, cari ascoltatori, dai! Lo schema Allegri è inserito a manetta, come ho detto prima, perché bisogna arrivare a tenere duro fino a Natale. Forza italiani, dai, che c'è qualche giorno di riposo, forse poi arriva sotto Natale. Allora, oggi ospite alle 8:15 avremo Luca Zaia, governatore del Veneto. E poi alle 8:30 Massimo Fini, scrittore, giornalista, e Licia Ronzulli, eurodeputato di Forza Italia, per raccontare un po' questo paese che vede ancora, avete sentito, le proteste in piazza. Ancora oggi ci sono interviste sui giornali, alcune molto interessanti a questi leader del Movimento 9 Dicembre. Allora andiamo a sfogliarli proprio i giornali che trovate in edicola. In questo venerdì 13, ma essere superstiziosi porta sfiga, lo sapete, eh? Venerdì 13 dicembre. Allora, il Sole 24 Ore, l'apertura, IMU, il maxi saldo colpisce l'80% dei contribuenti, questo è il titolo di prima pagina. La Stampa, famiglie e imprese, via agli scontri, sono le misure oggi al Consiglio dei Ministri. Mentre il Secolo XIX mette questo titolo di prima pagina che c'è su tutti i giornali per quel che riguarda la manovra, affitti stop ai contanti. Mentre Libero ha questo titolo, come bloccare le cartelle del fisco. È una vicenda un po' sui generis, nel senso che alle agenzie delle entrate una decisione del TAR ha stabilito che 767 dirigenti sono stati nominati in modo illegittimo. Secondo Libero, tutte le cartelle del fisco firmate da quei dirigenti, se venisse confermato tutto ciò, potrebbero essere annullate. Mentre poi arriviamo alla questione politica. La questione politica, lo scoramento mi prende perché l'apertura del Corriere della Sera è il caso della legge elettorale. Si chiude ormai la 32esima sì, settimana decisiva per la riforma elettorale. E vabbè. Repubblica, legge elettorale, è già battaglia. Pensate, è già battaglia. Uno pensa che sia da 5.000 giorni che la dovevano fare, invece è già battaglia. E anche il Messaggero, legge elettorale, blitz di Renzi. Per il Giornale invece si inforcano da soli, Alfano minaccia Letta, o facciamo noi la legge elettorale o è crisi, insomma la situazione politica. Per il Fatto Quotidiano, Italia della rabbia, questo è il titolo di prima pagina. Ne vedremo altri poi nel corso della rassegna stampa. Io voglio partire da quella che è una vicenda, abbiamo sentito anche nel giornale radio, che a me ha molto inquietato e fa molto riflettere anche sui giornali, l'arresto che c'è stato di questa icona antimafia, Rosi Canale, che portava in giro il suo spettacolo Malaluna. Nel 2007 raccontò le minacce di un boss, da ieri è agli arresti perché secondo i PM usava fondi pubblici che lei raccoglieva per l'attività antimafia per fini personali, shopping, vestiti, griff, scarpe, vacanze. vacanze vestiti griffati coi fondi dell'antimafia, intercettata con la madre al telefono, la madre che le diceva stai attenta, lei rispondeva me ne fotto. Donna simbolo, ma pagare i conti era l'antimafia, San Luca arrestata Rosi Canale, così il secolo XIX, oppure il giornale con Stefano Zurlo, la star dell'antimafia, comprava auto e vestiti coi fondi contro i clan. I titoli sono tutti uguali, e ogni giornale ne parla. Tra l'altro è il caso raccontato da tutti i giornali, non è il primo caso di icone dell'antimafia. Sapete, è stata arrestata da poco anche un ex sindaco di Isola Capo Rizzuto che faceva dell'antimafia la sua carta d'identità politica ed è stata invece arrestata perché l'accusa di avere preso anche i voti dell''ndrangheta. Allora Attilio Bolzoni, a pagina 27 di Repubblica, racconta il doppio gioco che uccide la Calabria. Qui anche l'onestà è un imbroglio. Racconta Bolzoni, usano i suoi slogan, si nascondono dietro le sue bandiere, è diventata così conveniente che viene corteggiata perfino dai boss. L'antimafia ormai fa gola anche alla mafia. In questa Italia dove a volte tutto sembra il contrario di tutto, capita che una sindaca famosa per le sue battaglie contro l''ndrangheta si ritrovi agli arresti per 'ndrangheta, o che una star delle coraggiose donne di San Luca finisca in carcere per aver comprato borse e vestiti griffati con i contributi pubblici per la legalità. Le vicende che ci trascinano in una Calabria malata sono quelle di Carolina Girasole, sotto accusa per scambio di voti con gli Arena di Isola Capo Rizzuto, e quella di Rosi Canale, imprenditrice soubrette che i soldi confiscati ai pelle se li metteva in tasca. Se è andata davvero, come raccontano le carte della procura di Catanzaro e Reggio, e fra le pieghe dell'indagine affiorano indizi significativi, esiste il pericolo che l'antimafia sia realmente preda di appetiti criminali? Qualcuno fa il doppio gioco? Cos'è oggi l'antimafia in Calabria? E Repubblica, e con Attilio Bolzoni, lo chiede a diversi sindaci, alcuni dei quali rispondono in maniera impietosa. È una moda, risponde Domenico Lucano, sindaco di Riace. L'antimafia non si fa coi proclami. Oppure Pino Varacalli, sindaco di Gerace, dico che in questa terra ci si può trovare facilmente coinvolti, difendersi è sempre difficile, io la legalità non la pronuncio mai, la applico e basta. E poi la frecciata, c'è un abuso di antimafia parlata, ricordate Sciascia sui professionisti dell'antimafia? Insomma, il viaggio in una terra divisa che fa Repubblica, ma tutti i giornali raccontano questa storia davvero incredibile. Le foto di Rosi Canale, accreditata come icona antimafia, è stata portata anche da Serena Dandini all'ONU come icona dell'antimafia, ci sono le foto su Libero con il ministro della giustizia Cancellieri, con il ministro degli esteri Emma Bonino, con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ricevuta ai massimi livelli, secondo le accuse invece. Insomma, usava i soldi per l'antimafia per le griff e le spese di shopping personale. E poi mi ha incuriosito molto la foto che Il Giorno mette in prima pagina. Si dice sempre, che lavativi al Parlamento, non si lavora. Guardate questa foto, se avete tempo, la trovate anche su internet. L'Europarlamento, parla Draghi a Strasburgo, ecco la foto della vergogna. Questo è il titolo di prima pagina. C'è Draghi che parla in un'aula deserta. Il governatore della Banca Centrale Europea parla, l'aula è deserta. Racconta Il Giorno, su 766 eurodeputati ce ne saranno stati una trentina. Draghi spiega il piano anticrisi e il Parlamento europeo è deserto. In aula una trentina di deputati, racconta Matteo Naccari a pagina 2 del Giorno, praticamente solo nel mezzo di un'arena che può contenere quasi un migliaio di persone, il cuore pulsante di uno dei simboli dell'Europa unita. Mario Draghi, l'uomo che ha salvato l'euro dal disastro, è passato inosservato ieri mattina a Strasburgo. Lui che era lì per rianimare l'economia, per parlare delle misure dell'anticrisi, dibattito molto atteso, almeno sulla carta. Intervento di Draghi diviso in due riprese, rigorosamente in inglese, durato in tutta una docina di minuti, eppure non c'era praticamente nessuno. Anche Leonardo Domenici, europarlamentare PD ed ex sindaco di Firenze, dice sì, eravamo pochissimi in aula, lui, Cofferati, il vicepresidente Pittella, Borghezio, Silvestris, Morganti, Angelilli, questi nomi citati dal quotidiano Il Giorno. E poi c'è l'inchiesta a fianco, la carovana di Strasburgo, che spreco, costa 200 milioni di euro l'anno, 3.000 persone si spostano da Bruxelles per le assemblee plenarie, e lo spreco su cui tanto si è puntato il dito di due sedi dell'Europarlamento, Bruxelles e Strasburgo. In quei giorni gli affari, racconta Naccari, sono con i prezzi che vanno alle stelle quando ci si sposta per le sessioni dell'Europarlamento a Strasburgo. In Francia l'unici a sorridere sono i commercianti, prezzi che vanno a 180 euro per un bed and breakfast. Insomma, fanno affari certamente molte persone, c'è un grande indotto, tutto questo però a spese dei contribuenti. 200 milioni di euro l'anno sono bruciati per una migrazione senza senso da Bruxelles a Strasburgo, questo racconta Il Giorno in pagina 2 e 3. E va bene, la foto è plasticamente tragica. Europarlamento, Draghi solo in mezzo al vuoto. Ecco, così affrontano la crisi in Europa. Le misure del governo e il dibattito alla legge di stabilità. Troverete questo titolo sui giornali in questa giornata. Lo stop all'uso del contante per pagare gli affitti. Si tratta, come racconta Il Sole 24 Ore con Marco Mobili a pagina 11, è una lotta alla evasione fiscale, quindi in tema di tracciabilità. Il bilancio, l'emendamento del PDino, quindi dell'onorevole PD Causi, bandisce una volta per tutte il contante nel pagamento degli affitti, una modifica introdotta che prevede che i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che, escludendo l'uso del contante, ne assicurino la tracciabilità. Vigilare col monitoraggio saranno i sindaci, i comuni, stabilisce l'emendamento, in relazione ai contratti di locazione dovranno svolgere attività di monitoraggio utilizzando anche i registri di anagrafe condominiale e le annotazioni delle locazioni in ambito di edifici condominiali. Dunque, mai più l'uso del contante, l'emendamento è stato approvato, si entra in legge di stabilità in via definitiva, sarà così, lo stop al contante per pagare l'affitto. A proposito di questo c'è, ripeto, il titolo di prima pagina di Libero, è un titolo che pone quella che la stessa Libero dice una sorta di bomba atomica sulla possibilità delle tasse. Come bloccare le cartelle del fisco? Tutto è spiegato a pagina 2 da Antonio Castro. E cioè, c'è una sentenza della Corte Costituzionale, cioè, o meglio, la Corte Costituzionale ora si deve pronunciare perché c'è una sentenza incombente. I dirigenti dell'Agenzia delle Entrate non sono dirigenti in gran parte e dunque gli atti firmati da questi non dirigenti non sono legittimi. Morale: una bella fetta degli italiani alle prese con cartelle azzurre che esigono pagamenti entro termini perentori potrebbero essere illegittime o essere sospese in attesa che si comprenda se questi non dirigenti, promossi con un atto amministrativo ma senza titolo, potevano firmare gli atti o meno. Una vicenda che può sembrare complicata rischia di trasformarsi, racconta Libero, in una sorta di bomba termonucleare per i malmessi conti pubblici. Vicenda che nasce qualche anno addietro, approdata ora alla Corte Costituzionale, perché? Perché la Consulta è chiamata a decidere su una questione che potrebbe avere ricadute se arrivasse una dichiarazione di illegittimità costituzionale sulla nomina di 767 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Ecco che tutti gli atti, anche da loro firmati, potrebbero essere invalidati e quindi tra questi anche le cartelle giunte a casa. E il titolo di Libero è questo: come stoppare le cartelle del fisco, visto che il TAR ha dichiarato illegittime le nomine di 767 dirigenti. Sempre un TAR, c'è sempre un TAR in Italia che blocca qualcosa, questo è un dato di fatto. A proposito di legge di stabilità, se volete quelle notizie che, come dico io, vi fanno tenere le mani strettissime sul volante se siete a guidare, oppure appoggiare la tazzina del caffè bollente per non scottarsi, nella legge di stabilità e nelle pieghe della legge di stabilità ci sono sempre che cosa? Degli emendamenti un po' strani. Il trucco è, come racconta Il Fatto Quotidiano con Carlo Di Foggia a pagina 8, la valorizzazione. Per valorizzare si danno soldi un po' a destra e a manca. Allora, 2 milioni di euro per valorizzare la vendita sui mercati esteri del Made in Italy. Per valorizzare le celebrazioni del Papa Buono e i luoghi di vita del Pontefice Giovanni XXIII, 10 milioni di euro a Sottolmonte, il paese natale del Papa. Per valorizzare i luoghi e la vita appunto del Papa Buono 10 milioni e poi per valorizzare con 1,5 milioni di euro la riapertura del teatro La Fenice. 1,5 milioni di euro alla Fenice per valorizzarne l'apertura, senza dimenticare la prima guerra mondiale, il centenario si avvicina, meglio non farsi trovare impreparati, 4,5 milioni per valorizzare le manifestazioni, convegni e mostre, 7,8 milioni di euro in 3 anni per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, con tanto di 500.000 euro ai comuni della provincia di Udine nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena. Valorizziamo anche questo. Bisogna valorizzare il servizio pubblico radiotelevisivo per potenziarlo a livello territoriale, quindi si appresta un aumento del 10% del canone. Ecco, anche questo c'è nella legge di stabilità. In tutto questo, ieri nelle pieghe del dibattito parlamentare c'è un leghista che ha presentato un emendamento per salvare il ponte sullo stretto di Messina. Ora, voi direte, ma come? Già il ponte sullo stretto di Messina, che non si farà mai, chiaramente. È in dismissione la società che lo doveva costruire. Un leghista che fa un emendamento, sì, è un leghista un po' particolare, si tratta di Angelo Attaghile, catanese, figlio del senatore democristiano Gioacchino Attaghile, andreottiano, già 2 volte sottosegretario alle finanze, è un leghista di quelli che è entrato nella Lega perché in Lega erano in 19 alla Camera e quindi lui col 20° numero dà la possibilità di costituire il gruppo autonomo della Lega alla Camera, e lui quindi è della Lega, ma insomma in qualche modo prestato alla Lega, e però è di Catania e ha proposto questo emendamento per salvare la società, perché dice il ponte sullo stretto è un'opera strategica, il ponte sullo stretto di Messina. In tutto questo c'è il dibattito sulla legge elettorale, come affrontarlo, voglio dire, la notizia è questa, la legge elettorale, la discussione passa dal Senato alla Camera. Questa è una vittoria politica di Matteo Renzi, è un dato di fatto riconosciuto da tutti i giornali, perché al Senato ci sono dei numeri un po' risicati, alla Camera invece c'è la possibilità di fare maggiori alleanze. L'unica cosa interessante in tutto questo, addirittura dei giornali ci aprono come il Corriere della Sera e Repubblica, un qualcosa che, insomma, ripeto, a molti italiani non capiscono e non capiranno mai il dibattito sulla legge elettorale con tutti i tecnicalismi del caso. L'unica cosa interessante da segnalarvi è l'intervista che il capo del Senato, presidente del Senato Massimo Franco, Piero Grasso, dà a Massimo Franco sul Corriere della Sera. Grasso dice: avevo avvertito i partiti, non potevo tollerare lo stallo. Non sto abdicando, dice Grasso, assolutamente no, il problema che si è presentato è piuttosto semplice e politicamente serio. Avevo spiegato da tempo che era indispensabile approvare una nuova legge elettorale al più presto, come aveva ribadito più volte il capo dello Stato, l'avevo ripetuto a giugno con risultati grami. Ah, adesso lo riconosce, che non si faceva nulla. La nostra Commissione Affari Costituzionali non è riuscita neppure a produrre un testo, e una settimana fa, cioè apro parentesi, durante la 31ª settimana decisiva per la riforma elettorale, chiusa parentesi, avevo mandato l'ultimo avvertimento: se continua lo stallo non esiterò a mandare tutto alla Camera. E di fronte a questa, alla domanda, ma così il nuovo centrodestra di Alfano minaccia la crisi, risponde Grasso: ma qualunque legge non dovrebbe comunque tornare al Senato dopo il sì della Camera? Comunque ognuno si assume le sue responsabilità politiche, la palla io la alzo, ma la devono schiacciare i partiti. Posso solo assicurare che non sto mica lavorando per utilizzare una maggioranza diversa da quella del governo. sulle responsabilità da assumersi, Grasso dice: se vuole ci provo, me le assumo, ma ho cercato di stimolare i gruppi con azioni dirette e indirette, ho avvertito che si rischiava di essere preceduti dalla Consulta e dunque che la politica sarebbe stata sconfitta, ma più che guardare indietro preferisco registrare l'accelerazione degli ultimi giorni. Insomma, c'è un'accelerazione, abbiate fede, cari ascoltatori. Abbia fede anche Mauro Meazza, che saluto. Buongiorno Mauro. Buongiorno Alessandro. Abbi fede che arriva, sì. Arriva la legge elettorale, ce la faremo, ce la faremo. Bene, no, ma guarda, cominciamo da una cosa positiva. Sì. Sai che forse oggi ci potrebbero varare il bonus libri, perché nel piano Destinazione Italia, che è composto da un decreto legge, un disegno di legge, vabbè, insomma, lasciamo stare questo aspetto qua, potrebbe persino esserci uno sconto fiscale per comprare i libri. Si parla per adesso di libri di carta, non quelli digitali, ma vabbè, insomma, sarebbe una, non lo so, mi è sembrata una bella notizia, te lo volevo dire. Beh, ma certo, perché... assolutamente sì, assolutamente, ecco, lo riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, poi avrai visto, ohimè, c'è sempre da studiare l'IMU. Perché lunedì ci interrogano. Esatto, lunedì sì. Lunedì, infatti, guarda, te lo dico, sono in ferie, ti preannuncio, no. L'ho fatto apposta, lunedì sono in ferie, e quindi sull'IMU? È chiaro. L'IMU seconda casa? Non è una scusa dell'ultimo secondo, la preannuncio da tre giorni, quindi. Ma l'avevo messa dall'inizio dell'anno, 16 dicembre, ferie per l'IMU. Io ti boccio però, se non mi studi l'IMU, guarda. Sarò spietato. Sulla legge di stabilità ricordavi prima agli ascoltatori quante cose anche curiose ci sono finite, noi abbiamo una descrizione oggi sul Sole 24 Ore con la vicenda appunto degli affitti, sulla tracciabilità degli affitti, le pensioni eccetera. Devo fare un messaggio in codice. Benissimo. Qui Radio Norme. Certo. Allora, abbiamo il coefficiente di novembre del TFR, in norme e tributi. Ah, tutti i commercialisti adesso sono... I commercialisti, i consulenti del lavoro, uffici, personale, eccetera, questo è un messaggio diretto a loro. Le rondini volano basse, noi abbiamo il coefficiente del TFR. E naturalmente c'è questa vicenda del rientro di capitali, ieri tu... hai pensato che io parlassi di rientri di squadre di calcio dall'estero, ma sì. Invece la vicenda è seria, è serissima. Molto. Ne parliamo anche oggi sul Sole 24 Ore. Se tu ti fossi dimenticato, caro Alessandro, di dire al fisco che hai dei soldi all'estero, io non so se tu l'hai fatto, ma può capitare. Mi dicono che è capitato. Allora guarda, leggi sul 24 Ore perché stanno preparando una specie di canale agevolato di rientro. Ecco, non possiamo dire che è un condono, mi raccomando. Non diciamo che è un condono. Assolutamente. Un piano agevolato di rientro. Mettiamola così. In inglese voluntary disclosure. Piano agevolato di rientro. Mettiamola questa me la sono un po' coniata io al momento. Il termine formale è quello in inglese. Vabbè, quella roba lì. Vi devo segnalare politicamente che ci sono anche dei movimenti, per esempio c'è un leghista, Michelino Davico, che lascia la Lega, abbandona, ha votato la fiducia a Letta, c'è questa foto pubblicata su Repubblica di tutti i leghisti che prendono fisicamente le distanze da lui, c'è proprio questa foto, lui sullo scranno e tutti gli altri da un'altra parte che gli ridono anche in faccia, come dire, ma guardate questo. Il senatore Davico, intervistato da Repubblica, da Concetto Vecchio a pagina 4, dice: se si fossero avvicinati a me mi sarei lasciato picchiare perché sono un non violento. Comunque ho votato la fiducia a Letta, anche se Calderoli mi ha dato del traditore, mi hanno sventolato i miei colleghi della Lega due banconote da 10 euro sotto il naso, ma io non valgo tanto a giudicare dal prezzo. Comunque proverei più vergogna a far cadere il governo Letta. Proverei più vergogna se avessi rubato o ad allearmi con Le Pen. E comunque dice: lascio la Lega, se mi offrono un posto nel governo con il rimpasto sarei onorato. E insomma, il leghista Davico abbandona la Lega. A proposito di Lega, oggi ci sono tanti articoli di interrogatorio dell'ex tesoriere Belsito, interrogato nell'inchiesta sui fondi della Lega, racconta sia la stampa, sia Repubblica, sia il giornale. Paolo Colonnello, per esempio, sulla stampa, pagina 16-17, bel sito, ho dato soldi in nero ai big della Lega, e cita Umberto Bossi con i figli, Calderoli, Salvini, Cota, insomma... Sono stralci di interrogatorio molto molto duri, tangenti in Veneto per la Lega, e sapevano anche Zaia e Tosi, così su Repubblica il titolo, Sandro De Riccardis e Emilio Randaccio. Noi avremo tra l'altro Luca Zaia ospite alle 8:15. Per il giornale addirittura in questo interrogatorio la segretaria, l'ex segretaria di Bossi, invece in un altro interrogatorio, sempre la stessa inchiesta, dice: Bossi è stato ingannato dal figlio Renzo, il Trota, pensava davvero che fosse laureato e studiasse negli Stati Uniti, dunque è stato ingannato sulla falsa laurea in Albania. Vabbè, come detto, in Italia ci sono ancora alcune persone che protestano. C'è da registrare un'intervista davvero incredibile, che è quella uno dei leader della protesta. Beh, i leader sono diversi, per esempio il solito Calvani che va in giro in Jaguar, e questa cosa, questa vicenda ormai è diventata quasi mitologica. Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera, lui dice: ci ho pure dormito, sono 5 giorni che dormo in macchina e mangio panini, questa storia mi ha veramente stufato, questa macchina è pignorata. Comunque sta vivendo questo bagno di folla, non ho mai visto niente del genere, non sono abituato a queste cose, alla fama. Certo, si è arrabbiata un po' mia moglie che mi ha visto fotografato vicino a delle ragazze, comunque torno ora a casa stanotte. Ma la vera intervista è ad Andrea Zunino, portavoce del Movimento 9 Dicembre, intervistato da Vera Schiavazzi su Repubblica. Aprite bene le orecchie, cari ascoltatori, sentite come parla uno dei leader dei cosiddetti forconi. Vogliamo le dimissioni del governo, vogliamo la sovranità dell'Italia, schiava dei banchieri. E vabbè, fin qui insomma sono slogan che si sono sentiti spesso. E poi aggiunge: come i Rothschild, sentite bene, è curioso che 5 o 6 tra i più ricchi del mondo siano ebrei, ma è una cosa che devo approfondire. Al che Repubblica dice: signor Zunino, si rende conto che da questa dichiarazione sulle banche ebraiche è nato il nazismo? Si rende conto di quello che dice? Non ho le prove, ma penso che Hitler, che probabilmente era pazzo, si sia vendicato con l'antisemitismo del voltafaccia dei suoi iniziali finanziatori americani, ma personalmente non mi interessa. Ecco, così poi parla di cosa vuole, perché eccetera. Avete capito bene? E poi cosa vuole? Qual è l'obiettivo? Le dimissioni del governo e delle due camere, ma non vogliamo una giunta militare, anzi stiamo lanciando un appello per formare un tavolo di giuristi e costituzionalisti che ci aiutino a capire come può nascere un governo provvisorio di solidarietà. Così parlò Zunino, uno dei leader del movimento dei forconi, per l'appunto. Vabbè, siamo quasi in chiusura. Ebbene sì, siamo quasi in chiusura. E allora siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo al momento della carta costa. Incredibilmente sta andando avanti da giorni un feuilleton della politica, e oggi Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, pagina 6, una delle pagine più importanti, un quarto di pagina di politica per raccontare il rapporto incrinato tra due esponenti del PD, Chiara Geloni e Marianna Madia. Ma io dico, ma trattare la politica così, si sta cadendo anche l'orologio, il clock della radio per la mia... La vestale bersaniana sorrise alla neorenziana. Geloni Madia, faccia a faccia dopo i veleni. Il riassunto delle puntate precedenti. Chiara Geloni si è scagliata contro la Madia, accusandola di essere protagonista di troppe giravolte all'interno del partito. E adesso la polemica tra Chiara Geloni e Marianna Madia assume il passo del feuilleton. Colpo di scena inevitabile. Le due si sono incrociate. Portone d'ingresso alla sede del PD. La Madia la vede e accade la cosa più culturalmente comunista che possa accadere. Le due due si esibiscono in un distillato di purissima ipocrisia, si sorridono, quasi si abbracciano. La Geloni dice: Marianna mi viene incontro e mi fa: avrei voluto chiamare mia figlia Chiara, ma ora dovrò cambiare nome. Ma che, io le ho detto mi farebbe piacere farle da madrina. Ma vi rendete conto? La politica italiana ridotta così sul più importante giornale. Cari amici del Corriere, l'appello anche oggi è questo. Tra l'altro siete in testa alla classifica, con grande affetto. Ricordate sempre che il microfono costa, ma anche la carta costa. Siamo qua alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci, allora, anche oggi parliamo di questa Italia parzialmente bloccata. Continuano delle manifestazioni di piazza, variegate anche di movimenti dalle sigle più disparate. Cominciamo da qui e lo facciamo parlandone e chiacchierandone con il presidente della Regione Veneto, il governatore del Veneto, Luca Zaia della Lega. Buongiorno e ben ritrovato, Zaia, eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, visto che continuano queste proteste, lei le capisce questo movimento? Cioè, e sta dalla parte di questo movimento anche se ha varie sfaccettature? Beh, guardi, io condivido fino in fondo il motivo della protesta, che è quello di una totale paralisi delle istituzioni che non danno risposte ai territori. E penso che poi la protesta dovrà essere gestita avendo anche un punto di caduta. Immagino e spero che il punto di caduta sia quello di avere nel giro di qualche ora, qualche giorno, una nuova legge elettorale che riporti in capo ai cittadini il potere di scegliersi i propri rappresentanti, andare a votare subito e finalmente, nell'alveo delle regole della democrazia, avere una classe dirigente che inizia a dare risposte. Cioè lei punta a questo, sperare che si faccia una legge elettorale, però guardi che quelli che sono in piazza, la sentite anche lei, invece hanno una linea del tutti a casa, tutti via, sono stanchi di tutto, sì. In qualche modo vogliono, tra virgolette, distruggere tutto quello che c'è, ma di costruttivo si è sentito poco. Ma guardi, innanzitutto la generalizzazione che si sta facendo non la condivido, perché comunque io conosco amministratori che sono delle brave persone e che fanno il loro dovere. La verità è che se per assurdo anche dovessimo decidere uno spoil system totale, cioè mandare tutti a casa, il giorno dopo bisogna rieleggere una classe dirigente. E la democrazia è quella, prevede che i cittadini vadano a votare. Lo diceva anche Grillo non più tardi di qualche mese fa, prima delle politiche, e poi il 78% degli italiani ha deciso di non votare Grillo. Senta, non è curioso che proprio, diciamo, lei della Lega chiede una legge elettorale che voluta o comunque che ha una patente leghista, no? La patente della porcata di Calderoli? Ma guardi, io non ho mai fatto mistero, l'ho sempre detto pubblicamente, che la legge che più mi piace è quella dell'elezione diretta di un Presidente del Consiglio, che trascina con sé un numero tale di parlamentari per garantirgli la maggioranza, e dopodiché questi parlamentari dovranno essere trascinati in base di preferenze personali. Vuoi definirlo la legge per eleggere il sindaco, vuoi definirlo la legge per eleggere il Presidente della Regione, è la stessa cosa. Le voglio anche dire che io ho risposto con i fatti. 2010 sono stato eletto, a fine 2010 ho fatto approvare una nuova legge elettorale in Veneto, che è l'unica regione che ha il proporzionale puro, non ha più listini bloccati, non ha più nulla. Su questo lei quindi è come Renzi, no? Appoggia questa idea, la legge per i sindaci, così viene definita, o per appunto i governatori? Guardi, mi scusi la correzione, forse posso dire che Renzi è un mio discepolo, visto e considerato che io l'ho fatta la legge elettorale 3 anni fa, per cui in tempi non sospetti. In Veneto c'è già. Non è pericoloso in qualche modo cavalcare una protesta, quella che c'è in Italia, che, ripeto, ha anche, non so, per esempio oggi lei non l'avrà vista, ma su Repubblica uno di questi leader, Zunino, dice testuale: i 5-6 banchieri più ricchi del mondo sono ebrei, devo approfondire questa cosa, cioè che è un'argomentazione che usavano i nazisti, ed è accreditato come uno dei responsabili di queste associazioni che protestano. Guardi, io le ho detto che condivido i motivi della protesta, che sono quelli di un popolo che ha fame, e purtroppo le rivoluzioni si fanno con la pancia vuota e non con la pancia piena, ed è bene capire che noi non possiamo più attendere. Lo dico a una radio molto attenta alla mia regione: noi abbiamo 600.000 partite IVA, le nostre partite IVA non possono continuare ad avere una pressione fiscale del 68,5% contro un 46% di media europea. Poi altri temi, tipo questa dichiarazione rispetto ai banchieri e agli ebrei, o altre cretinate del genere, sono da condannare senza se o senza ma. E soprattutto, mi perdoni, sì, sono da condannare tutte quelle azioni che mettono a rischio la libertà dei cittadini, perché poi oltretutto c'è anche l'effetto boomerang. A proposito, ho visto che i cittadini anche in Veneto ieri se la sono presa come manifestazione contro Equitalia, diciamo come simbolo appunto della pressione fiscale che lei ha citato. Sa che in Lombardia Maroni, il suo collega anche di partito, ha avviato le procedure per abbandonare Equitalia e riscuotere le tasse direttamente come regione. Lei condivide e cosa significa? È anche un significato politico questo? È un significato profondamente politico e capisco la scelta del presidente Maroni che ha voluto fare da apripista. Poi il vero problema che noi abbiamo, e per questo motivo l'apripista lo fa la regione Lombardia, è che oggi ha regole invariate, cioè se il Parlamento non cambia le regole tu non puoi dire ai tuoi cittadini ti faccio un piano che so di rateizzazione o evito di venire a riscuotere, perché comunque le regole sono nazionali e c'è il rischio di cambiare il nome dell'esattore, ma le modalità restano le stesse. Ma il Veneto lei lo farebbe in Veneto la stessa mossa? Ma guardi, non le nego che è stata una decisione presa assieme. Lombardia fa da apripista e in Veneto, finché le regole non cambiano e non si danno autonomia, si dà autonomia ai governatori, quindi al governatore di decidere come riscuotere e con che modalità, senza applicare i tassi spesso da usura che vediamo, noi non la applichiamo. Voi non la fate, nel senso volete prima una sorta di autonomia, ma nel senso che è una mossa simbolica, mi sta dicendo, quella della Lombardia, oppure si può tecnicamente proprio fare? No, si può tecnicamente fare, lo prevede la legge. Ne abbiamo parlato con Roberto Maroni, la Lombardia fa questo passo, abbiamo valutato tutti assieme, noi come regioni amministrate dalla Lega, la possibilità, abbiamo deciso che faccia questo passo la Lombardia, dopodiché, le ripeto, il vero tema è cambiare le regole e dare potere ai governatori di decidere regole nuove. Ma lei come le abbasserebbe le tasse, cioè dal punto di vista pratico, questo 68% di pressione fiscale? Guardi, io abbasserei la pressione fiscale, visto considerato che i miei dirimpettai carenziani hanno il 25% di tasse, e lavorerei sul cuneo fiscale in questa maniera. Applicare la virtuosità delle regioni virtuose, quindi il Veneto, la Lombardia, tutta Italia, vuol dire applicare i costi della pubblica amministrazione del Veneto, significherebbe avere un risparmio di 30 miliardi di euro all'anno. Però bisognerebbe dire che un pasto in ospedale deve costare 6,5 euro come in Veneto e non 60-80 euro come accade in alcune regioni del sud. Però questo viene fatto, cioè è stata proprio passata un po' sotto traccia, ma la sua regione, come altre due regioni, sono identificate come le regioni che dovranno dare i costi standard della sanità, quindi questo si farà. Questa è una battaglia che, mi permetto di dire, abbiamo vinto, visto considerato che il Veneto si è speso tanto. Si inizierà dal 2014, però dico che ormai abbiamo passato anche i tempi supplementari, ci sono delle cose che gridano vendetta, i costi della pubblica amministrazione, penso che so ai 22.000 forestali della Sicilia contro i 400 del Veneto che si ritrova l'80% delle Dolomiti, questi sono solo alcuni degli esempi, quindi gli sprechi si possono tagliare obbligando tutti a vivere in maniera virtuosa. Non c'è il rischio che se lei tagliasse i forestali poi se li ritrova nel movimento dei forconi o nei movimenti che stanno protestando adesso in Italia, per cui è un circolo vizioso forse? Ma guardi, io ho proprio dato un'intervista questa mattina al Gazzettino e dico proprio questo, che poi il movimento dei forconi, se dovesse fare una sintesi nazionale, la vedo problematica, perché c'è chi gira in Jaguar e chi viaggia a piedi, c'è chi mette l'inno d'Italia e chi sventola il vessillo di San Marco. Lei capisce, c'è chi ha 22.000 forestali e chi ne ha 400. Poi la sintesi è difficoltosa e in alcuni casi la definirei anche problematica. Lei lo paga l'IMU, lei il 16, a case sulle quali, e se sì, sa quanto deve pagare a tre giorni? No. Io l'IMU se da pagare la pago, non ho mai fatto invitato a proteste che poi mettono nei guai i cittadini. No, dico che è una vergogna, però mi lasci dire che è una vergogna che si faccia pagare l'IMU, visto considerato che in un paese civile quando tu guadagni paghi le tasse e poi lo Stato dovrebbe sparire. Invece in Italia lo Stato ti segue per tutta la vita. Non dovrebbe essere così, ma sa quanto deve pagare? No, perché sa, ci sono i commercialisti che a tre giorni dal pagamento manco sanno quanto si Io deve pagare. Non ne ho la più pallida idea, guardi, cioè dovrò chiedere anch'io alla, a chi mi tiene i conti e quanto dovrò pagare. Comunque non ho una casa grande, quindi cioè non affronterò anche. No, faccia in fretta perché mancano tre giorni, non è che so. Ma la pago, guardi, io le tasse le ho sempre pagate. Insomma, chiaro. Senta, Zaia, le devo chiedere un commento su quello che pubblica oggi i giornali, l'avrà visto, gli interrogatori dell'ex tesoriere della Lega Belsito, che dice in pratica ho dato soldi a tutti i big della Lega, tira in ballo un po' tutti, Maroni, Cotta, Salvini, ma dice anche che tangenti in Veneto e Zaia e Tosi sapevano. Ma guardi, io sono oggetto per la seconda volta di una citazione autorevole del signor Belsito, con il quale io avevo rapporti pressoché zero. Allora, la prima volta ho detto che partecipavo a cene con bossi e grossi imprenditori per i finanziamenti. Ha avuto la sfortuna di prendere in ballo una persona, cioè il sottoscritto, che non va alle cene proprio per metodo, per cui 1-0 palla al centro. Adesso c'è questa nuova novità e dico che non è nulla di vero e sono a disposizione dei giudici. E mio nonno mi diceva sempre: male non fare, paura non avere. Guardi, io ho fatto, penso, ormai un centinaio di denunce, penso che quello che sto facendo in regione sia sotto gli occhi di tutti. Non mi è mai stata pagata una fattura, non ho mai ricevuto soldi, vengo da una campagna delle regionali autofinanziata, cioè con l'autotassazione dei consiglieri, e quindi guardi, cioè non, a disposizione di tutti. Ma che farà? Cioè, che denuncerà Belsito oppure no? Non... Cosa vuole che facciamo? Cioè, non è, cioè, questo ne tira fuori una al giorno. Io spero che i giudici facciano veloci e poi le condanne renderanno giustizia a tutti, ed è bene che queste condanne arrivino velocemente, visto e considerato che i cittadini hanno diritto ad avere chiarezza. Certo che per concludere è stata proprio una scelta sbagliata di persona, evidentemente, perché era uno dei vostri, cioè era il tesoriere addirittura della Lega. Guardi, andiamo piano. Io primo non ero nella stanza dei bottoni, secondo non l'ho scelto. Io terzo non, di fatto non so neanche da dove sia arrivato. Va bene, io intanto la ringrazio, buona giornata. Grazie per essere stato con noi, Luca Zaia, il governatore del Veneto. Continuiamo su questo tema, insomma, quest'Italia un po' in subbuglio. Lo facciamo con l'eurodeputato di Forza Italia Licia Ronzulli, che saluto, buongiorno e benvenuta, eccoci qua. A voi, buongiorno a tutti. Saluto anche Massimo Fini, scrittore editorialista del Fatto Quotidiano e del Gazzettino. Buongiorno e ben ritrovato, Fini. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, di certo Luca Zaia non appoggia, come ha detto, quella definita come una cretinata, cioè il portavoce, uno dei portavoce, Andrea Zunino del Movimento 9 Dicembre, oggi a Repubblica, dice: è curioso che 5 o 6 tra i banchieri più ricchi al mondo siano ebrei, è una cosa che devo approfondire. Massimo Fini, si parte da qui, cioè questi argomenti che usavano i nazisti, allora sono anche queste le persone che sono in piazza, cioè chi è che sta manifestando, lei l'ha capito? Ma in piazza c'è di tutto e naturalmente ci può essere anche qualche cretino, ma in realtà in piazza c'è la gente, quella che sprezzantemente chiamiamo la gente normale, ci sono padroncini di tira, agricoltori, artigiani, ambulanti, commercianti anche. Gente esasperata, gente che non ce la fa gente, più. Sì, esasperata, teniamo presente che tutto ciò si inserisce in un clima che è stato ben descritto dal Censis nel suo ultimo rapporto recentissimo, dove parla di un'Italia sciapa, di un'Italia triste, di un'Italia infelice, ma aggiunge che non è solo questione di soldi, è anche questione di una caduta verticale di valori. Ecco, questo ha creato in questa stagnazione, in questa agonia, ci si doveva aspettare prima o poi un qualche sussulto. A lei infatti lo diceva, lo scriveva, lo auspicava, devo dire, sì, anche a questi microfoni, lo auspicava proprio, dice magari venisse una... è questa la, come dire, la rivolta sociale che le piace, che auspicava? Naturalmente un giornalista deve tenersi sempre anche un po' lontano dall'oggetto del suo interesse, però mi sembra, adesso bisognerà vedere, perché poi Il potere ha tanti strumenti per esempio dividere i manifestanti, blandire, fare compromessi eccetera, però se ci fosse una primavera italiana dopo tanta gran cassa sulle primavere arabe, certo a me non dispiacerebbe. Non dispiacerebbe, una primavera italiana. Onorevole Ronzulli, lei scenderebbe in piazza, ha capito chi sono questi italiani, insomma, anche se non è facile dare una fotografia ben definita, che manifestano? Sì, beh, sicuramente come ha detto il giornalista del Fatto c'è un po' di tutto, sicuramente è un movimento che in questo momento cavalca il disagio e sicuramente anche la collera. Io non scenderei, ma io ho un altro modo di esprimere il mio disagio e la mia collera, ma questo da sempre, francamente. Io ai tempi del liceo non era una che si metteva a manifestare, non era una che si metteva a fare i picchetti, non era una che impediva ai miei colleghi, ai miei compagni di banco di entrare in classe. Ecco, francamente non l'ho mai fatto a 15 anni, non lo farei ora, che ne ho quasi 40. Quindi ecco. blocchi non van bene. No, non mi piace questa cosa di impedire la libertà di qualcun altro, ecco. Questo dal punto di vista proprio personale non, è una cosa che non ho mai tollerato e non tollerò neanche perché adesso. Per esempio due giorni fa o ieri Berlusconi era dato per uno che stava per incontrarli, poi invece è stato in qualche modo convinto a non farlo. Secondo lei ha fatto bene, diciamo, a non unirsi anche in maniera così politica a un movimento che ancora non si capisce bene che cosa vuole? Allora, sono due cose. Allora, secondo me sicuramente allora vanno ascoltati sicuramente, quindi l'intenzione del presidente Berlusconi era proprio questa, cioè ascoltare i motivi di questo disagio, però ha fatto bene a non incontrarli per quanto mi riguarda, il parere è del tutto personale, perché in quel momento non si capiva bene qual era la rappresentanza, insomma chi erano veramente i rappresentanti che poi si sarebbero recati al partito, in sede di partito, quindi creando in effetti poi magari dei malcontenti, magari invitando qualcuno e non invitandone altri. Sì, certo. Si immagini se avesse incontrato questo che poi oggi su Repubblica dice i più ricchi sono gli ebrei, no, capisce che poi argomenti che utilizzavano i nazisti. Sai che però l'Europa è forse il primo obiettivo di molti dei manifestanti, dicono l'Europa e l'euro ci ha strozzato. L'Europa e l'euro e tutti i vincoli europei sono quelli che proprio ci costringono alla miseria, oltre ovviamente unita alla incapacità della politica italiana. Lei li segue su questo anti-europeismo? No, io sono dell'opinione che proprio stando su vadano rivisti sicuramente i patti che si erano fatti ai tempi. Francamente potessi tornare indietro non rivoterei il fiscal compact, quindi queste regole d'oro così troppo vincolanti. D'altra parte però dico, come sono state concesse alcune deroghe da altri stati, non vedo per quale motivo l'Italia non debba poter chiedere una deroga, soprattutto non debba poter essere data questa deroga per esempio sul spazio del 3%, però credo sì ci sia una politica rigorista che in questo momento non aiuta nello sviluppo e nella crescita, e sicuramente va fatto qualcosa, è che però i patti e i trattati sono stati firmati certo. E questo è, allora dice a chi mi scrive, dice ma va, invece di stare al caldo cercate di capire, ma tutti i giorni abbiamo invitato spesso le persone che protestano, i microfoni sono aperti, c'è gente che può chiamare come sempre, quindi cosa possiamo fare più che dare loro voce come abbiamo fatto lungo tutta questa settimana. Massimo Fini, fanno bene a criticare l'Europa secondo lei come bersaglio, uno dei bersagli? Molti degli argomenti di questo movimento spontaneo sono di tipo grillino, però loro non sono grillini, cioè la novità di questo movimento è che non ha sopra il cappello di nessun partito né del sindacato, e cioè è completamente, diciamo, fuori dalle categorie note che governano questo sistema. Questa secondo me è la novità più interessante, insieme all'altra, sia pur marginale ma molto inquietante per il potere, infatti Alfano ha strillato come un'aquila, è il fatto che a Torino e a Genova alcuni poliziotti si siano tolti il casco antisommossa e abbiano fraternizzato con i manifestanti. Però su questo gesto sa che si è molto detto, ci sono i poliziotti che dicono ma no, è un gesto classico distensivo nel momento. Sì, questo è stato la giustificazione, ma secondo me non è così. Quei poliziotti rappresentavano anche altri che non sono arrivati a questo, sono stati al coperto, ma voglio dire, evidentemente non credono più allo Stato e alle istituzioni che dovrebbero difendere. Guardi che, ed è questo il motivo, credo, di grande preoccupazione, diciamo, delle istituzioni. Di Alfano, ebbè chiaro. Che, chiamiamole così, guardi che tutti i regimi sono caduti quando polizia e esercito hanno abbandonato il potere fino allora considerato legittimo. Quindi questo è un segno importante. Eccoci qua, prima di sentire l'audio breve di Silvio Berlusconi, due ascoltatori, se sono rapidi gentilmente, Vincenzo da Catania. Vincenzo, buongiorno. Sì, Milan, buongiorno. No, io dico, mi chiedevo questo, c'è una grande ipocrisia attorno al problema. Cioè, la realtà, l'Italia che è lì, è quella che è vera, quella fasulla è quella di questi signori che non continuano a non capire che la gente non ce l'ha fatta più. Questi signori, cioè, questi signori chi sono? I governanti, i nostri governanti fanno finta di non capire perché non sanno cos'è la realtà di frontiera, cioè non vivono la vita quotidiana. Scendano in piazza, vadano a prendere un tram, vengono in Sicilia, nel sud, si rendono conto che i servizi non esistono, non esiste nulla, esiste solo la Ferit, esiste solo i pignoramenti, esistono solo, insomma, le tasse. La Ferit è l'Equitalia locale? L'Equitalia locale, sì, che distrugge la gente, che una multa di 1.000 euro diventa 3.000 euro, che la gente non può pagare sicuramente, quindi c'è tutta una falsità attorno al problema. C'è una grande ipocrisia, questo è un governo di grande ipocrisia, dove dice le cose che non sono. Cioè, la gente vera è quella in piazza, no, capito? No, chiaro. Lei dice c'è proprio lo scollamento del governante rispetto alla realtà. Questi vivono in un mondo dorato e non capiscono che cos'è la realtà, perché uno che guadagna 1.000.000 di euro l'anno, cosa vuole che possa capire di chi la mattina si alza e non hai 50 euro per camminare? Questo certamente, 1.000.000 di euro l'anno sono pochi, non certi i parlamentari guadagnano 1.000.000 di euro. Comunque, Vincenzo, la ringrazio. Daniele da Verbania, buongiorno Daniele. Buongiorno. Io mi domando, quando sento parlare, diciamo, i politici, la classe politica, che si autogiustificano, ma loro non sanno veramente cosa vuol dire andare avanti in questo paese. Non lo sanno, dovrebbero stare zitti e accettare queste manifestazioni che potrebbe passare qui da me, davanti a casa mia, mi unirei anch'io, non per forza ci deve essere un cappello sopra. È una cosa fuori dal mondo, loro non hanno un'idea di cosa vuol dire andare avanti in un'attività imprenditoriale in questo paese. E continuano gli stessi che da 30 anni si sono riciclati 1.000 volte a tentare di dare una ricetta. Adesso basta, sul serio. Basta, insomma, lei si unisce. Ha sentito l'onorevole Ronzulli, poi magari parliamo di Berlusconi. Sì, volevo cioè, io intanto non sto zitta e non accetto, intanto perché il signore non sa cosa facevo io prima, ho sempre lavorato prima di iniziare a far politica, quindi, come ho detto prima, capisco benissimo il disagio e la collera. A differenza di queste persone, io non mi unirei, perché io personalmente non accetto di fare una protesta in questo senso. Va bene, l'ascolto, va bene la proposta, non quando si impedisce a qualcun altro. Cioè, io ho visto persone sotto casa, io abito in una zona periferica, sotto casa avvisare i negozianti di tener chiuso, quindi di minacciare e di intimidire qualcuno a tener chiuso, quindi a non far lavorare. Ecco, non è un paese civile. Questa non è una protesta, una manifestazione pacifica, è un'altra cosa. Questo tipo di manifestazioni che ci sono state sicuramente sono state condannate e sono incivili, persone che sono state costrette a chiudere i negozi. Ristoratori che non aprono da 3 giorni, ma per quale motivo devono avere un deficit, devono avere una mancanza economica a fine mese, ma questo perché senza dubbio è impedito di aprire. Purtroppo quando ci sono queste manifestazioni si infiltrano anche dei facinorosi e dei violenti. Sì, ma non sono stati casi isolati, capisci? Alla fine è vero che non c'è un cappello politico, però alla fine secondo me molto viene anche strumentalizzato, utilizzato di proposito. Allora, certo? Vogliamo sentire l'audio di Berlusconi alla radio francese, parla, la domanda risponde, se ci fosse l'arresto. Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas faire, parce que sinon il y aura une révolution en Italie. Cioè, sono sicuro che non ci sarà, se no ci sarà una rivoluzione in Italia. Onorevole Ronzulli, sembra un modo pacato da statista di parlare, ci sarà una rivoluzione se mi arrestano. Ma di fatto esprime un concetto, e cioè quello che non si tiene in considerazione quello che ha deciso pochissimi mesi fa in campagna elettorale quasi 10 milioni di italiani. Quindi la rivoluzione sta in questo senso: nel momento in cui verrà a mancare la libertà del presidente Berlusconi, è ovvio che le persone che hanno sempre creduto in lui, io credo fermamente, scenderebbero in piazza. Vabbè, cioè, cosa ci sarebbe chiaro? Sì. A parte che parlare di un'ipotesi di arresto è una roba aberrante, secondo me, nel senso, però rispondeva a una domanda, immagino, se ci fosse l'arresto. Però uno che fa? Dovesse esserci, non so, Massimo Fini, è legittimo che Berlusconi, diciamo, si difenda così di fronte a questa domanda? Domanda, dice, se succede questo ci sarà una rivoluzione in Italia. No, mi faccia comunque dire prima, così per incidence, che il sindacato in anni passati ha fatto ben peggio sul piano dell'impedire il lavoro a chi voleva lavorare, quindi questa non è una novità portata da queste manifestazioni di piazza. Beh, però non giustificherà uno che fa chiudere un negozio a un altro. Va bene, ma questo c'è stato. Cioè, dicendo chiudi o ti spacco le vetrine, ma che sì, forma di protesta? Quando la sinistra era forte e potente, il sindacato faceva esattamente queste cose qui, ti impediva di lavorare. I crumiri non vanno a lavorare, certo. Si ricorda, no? No, ma è chiaro. Noi sì. Purtroppo, lei è giovane, io ho l'età di Matusalemme, io queste cose me le ricordo. Ecco, e in quanto a Berlusconi, direi dall'inizio quasi che fa dichiarazioni queste sì eversive, perché un cittadino qualunque, ma tanto più un presidente del Consiglio, deve accettare le sentenze della magistratura italiana emessa in nome per conto del popolo italiano. Queste sono cose che in altri paesi non si sono mai viste. Il problema è che è stato condannato e voglio dire, rispondo anche all'onorevole, che non è che il consenso autorizza a commettere reati. Perché sennò dovremmo fare una tabella: se tu hai un consenso di 2 milioni di persone puoi fare una rapina, se ne hai di 4 una rapina a mano armata, se ne hai di 8 una frode fiscale. Cioè, voglio dire, siamo fuori da ogni logica di quella democrazia che poi No, ma è chiaro, la sua posizione è molto, molto chiara, onorevole Ronzulli. Qui vabbè, ma tanto parliamo di un qualcosa che insomma, accettiamo la sentenza nel momento in cui una sentenza è giusta. Se c'è una sentenza che è ingiusta e che probabilmente verrà rivista in una revisione del processo, è ovvio, e credo che una persona debba poter esprimere il suo pensiero, come ha fatto il presidente Berlusconi ieri, perché di fatto di questo si tratta. Sì, però insomma, la sua frase se ci fosse l'arresto ci sarebbe una rivoluzione non è proprio simpatica, ecco, diciamo così. Però ho un minuto, onorevole Ronzulli, devo chiedere questo. Sa che oggi Il Giorno impietosamente mette una foto dicendo la foto della vergogna. Lei per esempio ieri non era a Strasburgo a ascoltare Draghi, non c'era nessuno, c'era Draghi a parlare in un Europarlamento deserto, c'erano 20 eurodeputati su 766. Ma come è possibile questa cosa? Francamente questo non glielo so dire. Però lei non c'era, per esempio. Le posso dire perché non c'ero io. Avevo una visita medica di mia figlia, francamente viene prima di qualsiasi Draghi di turno, quindi io, considerato che sono stata in 5 anni, sono rimasta incinta, ho avuto una bambina, io ho, nonostante tutto questo, e le mamme sanno quanto è impegnativo, ho il 2% di presenza, quindi se per un giorno devo fare una visita medica a mia figlia, francamente l'immagine è proprio, come dire, Draghi che parlava della crisi e l'Europarlamento deserto. Comunque oggi è su tutti i giornali, mi devo fermare qui se no sforo. Ringrazio Massimo Fini e l'onorevole Licia Ronzulli di Forza Italia, europarlamentare. Da Elisabetta Fuscone, Alessandro Marco Tulli, Miriam Lucchetti e dall'Alpino Peter Bescapè vi diamo appuntamento a io lunedì non ci sono, sono in ferie, e voi lunedì c'è però. Alessandro Miller è un ottimo, eccellente rimedio contro le stress e le gastriti da politica.